English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa volta parliamo di pubblicità, perché è stata lanciata in Gran Bretagna una campagna pubblicitaria molto divertente. Giulia me l'ha segnalata subito, perché chi segue English 24 sa quanto Giulia ama i gatti. Ebbene, i gatti sono protagonisti di questa pubblicità, che però è anche un esperimento. Io non voglio svelarvelo molto, vi dico solo che siamo a Wembley, città che ospita un noto stadio, ma insomma città inglese, c'è un negozio di mobili molto famoso, svedese, non vi dirò il nome, insomma, ma è la campagna pubblicitaria nuova di questo colosso del mobile. Ascoltiamo il primo estratto e lo scopriremo insieme. This is Wembley, home to one of IKEA's flagship stores. By day it's teeming with thousands of shoppers, but tonight it'll be invaded by a different kind of customer. I guess we thought, well, let's do an experiment. Let's take 100 cats, release them in IKEA, and let's actually do it for real at night when the stores close, and let's see what happens. They might do nothing. They might run and hide under shelves. They might have one massive fight. It's a crazy idea, but the whole point of the idea is, you know, interesting. With that amount of cats, it's unpredictable, and that's why we're doing it. Qualcuno avrà sentito miagolare, quindi proprio i gatti sono i protagonisti di questo commercial, di questo spot. Che cosa succede? È veramente un esperimento molto buffo, quasi etologico, direi, Giulia. Sì, perché chiunque, insomma, conosca un po' i gatti li ha avuti in casa, sa che non sono animali che si possono addestrare o che si possono convincere a fare qualcosa anche solo per farci piacere, cosa che naturalmente si riesce a fare un pochino con i cani. Quindi questi different kind of customers, li ha chiamati il nostro la voce nell'introduzione, cioè dopo la chiusura di questo flagship store, cioè flagship store lo usiamo in italiano, non lo traduciamo neanche più, però letteralmente è un negozio bandiera, quindi vuol dire i negozi principali, quelli che chiamiamo i monomarca dell'IKEA, naturalmente l'avete capito. Quindi will be invaded by a different kind of customers, i clienti, quindi saranno clienti un po' diversi da quelli che ci sono fino alle 9 di sera. Diciamo che niente era previsto e prevedibile, quindi let's do an experiment, facciamo un esperimento e vediamo cosa succede. Questa forma let's, no? Let, che letteralmente è let us, che vuol dire una specie di imperativo, no? Let us do something, let's do an experiment, let's do it for real, facciamolo per davvero, let's do it for real at 9 when the store is closed. E poi let's see what happens, e vediamo che cosa succede. They might do nothing, questo they might è molto interessante linguisticamente e anche poi per quello che succede. Naturalmente, no? They may o they might, che il nostro lo usano, gli inglesi lo usano per fare il condizionale, con i gatti purtroppo bisogna mettere in conto anche questo, che voi desiderate disperatamente che loro facciano qualche cosa, well, they might do nothing, e potrebbe invece essere che non facciano niente, oppure they might run and hide, quindi correre e nascondersi on the shelves. Shelves è uno di quei pochissimi verbi con il parole, quei pochissimi sostantivi con il plurale irregolare, come knife, knives, come wife, wives, e questo one shelf, una mensola, più mensole, more shelves, con la VES finale. It's unpredictable, è imprevedibile, e quindi andiamo a sentire insieme cosa è successo nel momento in cui hanno cominciato a far entrare questi 100 gatti nel negozio di mobili. These are not specially trained film cats. No one knew what they would do, but their owners had some idea. We're trying to find a couch potato scene for him, so something to do with the living room. Buzz is going to be an investigator, he'll look for the highest area of the building. Dotty likes sitting on top of very tall units. A team of animal handlers were on set, along with 5 film crews to catch all the action. They went into every little hole, every crevice, every dark bit, which is great because we also had with us, we had a night vision infrared camera, which gives you, you know, these lovely shots when the cats went right through the dark corners under the bed, we could still capture them. Go cats, go! Go cats! Whoa, stop! Go cats go, andate gatti, e poi subito uno stop, chissà cosa stava succedendo, fermatevi. Allora, esperimento, non sono, lo abbiamo detto, gatti addestrati, già è difficilissimo farlo, non sono però quelli che magari servono per il cinema. Sì, qui scopriamo appunto che esistono questi specially trained film cats, quindi dei gatti che qualcuno ha disperatamente cercato in qualche modo di addestrare. Io vorrei vederli questi gatti addestrati, vorrei vedere soprattutto il processo processo di addestramento. Però ammesso che esistono, questi qui, questi 100 di cui parliamo noi, non erano così. E quindi no one knew what they would do. E naturalmente nessuno sapeva che cosa avrebbero fatto. Questo sappiamo è l'uso del condizionale would, come prima abbiamo visto might. Qui anche avrebbe potuto usare might. No one knew what they might do. E invece, insomma, qui ha usato would, che è ancora di più il condizionale, proprio nel senso non nessuno aveva un'idea, eravamo aperti a tutto. Oddio, meglio, i proprietari had some idea, qualche idea ce l'avevano, ma in realtà, insomma, forse le previsioni non erano sbagliate. C'era una signora che stava cercando qualcosa per il suo gatto. Sì, poi guardatelo su internet questo filmato, perché è un campionario proprio di inglesi stupendi, l'inglese tipico col suo gatto, appunto, questa signora, e lei stava cercando we tried, we naturalmente lei e il suo gatto, parla al plurale, naturalmente sono una coppia imprescindibile. We try to find a couch potato thing. Oh, couch potato è un'espressione bellissima e letteralmente vuol dire una patata da divano, e sono quindi quei divani che sono ideali per guardare la televisione, tant'è che poi una persona addirittura è una couch potato, cioè una persona che sprofonda tutti i giorni nel divano per guardare la televisione. Si suppone quindi che il suo sia un gatto un po' pigro. Eh sì, perché poi ci sono tutti i gatti che hanno il loro atteggiamento, il loro carattere, e quindi ognuno viene presentato anche dal proprio compagno di vita a due zampe. E naturalmente con un tono come se stessimo per assistere a un'esibizione assolutamente eccezionale, come per esempio questo signore che parla della sua Dottie, la sua gatta, e likes to sit on top of very tall units. Insomma, sappiate che a lei piace sedersi in cima a queste cose molto alte. Unit può essere qualsiasi cosa, un armadio, una scala, una serie di scatole, ed è una cosa chiaramente miracolosa secondo il suo proprietario. Sappiamo anche un po' come era composta la crew, cioè la troupe che ha realizzato questo spot. Ecco, perché una cosa che avrei temuto io era, effettivamente l'aveva detto prima, che fosse magari ci fosse una massive fight, cioè una grande rissa tra i gatti, e perciò hanno previsto on set, quindi perché l'IKEA in quel momento è diventato un vero e proprio set di questo spot pubblicitario, a team of animal handlers, quindi handle naturalmente vuol dire maneggiare, quindi un handler è diciamo un addestratore, uno che sa maneggiare i gatti, quindi erano previsti along with five film crews, insieme a cinque troupe cinematografiche, perché infatti anche lì, se vedete il video, ci sono telecamere dappertutto, cioè era chiaro che bisognava sfruttare ogni possibile mossa di questi 100 gatti imprevedibili. Eh sì, anche perché se si ficcavano in posti al buio c'erano addirittura le infrared cameras, cioè le telecamere a raggi infrarossi, per dare questi lovely shot, l'abbiamo già detto più volte, non è solo il colpo ma anche proprio la ripresa di quando i gatti, insomma, andavano a cercare gli angoli più bui, questi dark corners. Anche qui chi ama i gatti sa che sono bravissimi a nascondersi, e che magari scoprono questi dark corners che noi non sapevamo neanche che esistessero, o pensavamo che loro non ci potessero stare, invece ci stanno, ci si nascondono. Come è andata a finire? Vabbè, lo sentiamo insieme. I can see how it's a stressful, you know, job working with animals. Cats are independent, so they don't really listen to us. They do what they want. Their characters have really come out, you know. It's quite amazing how territorial the bigger stud cats are, but the kittens are just playful and just happy to be out, having a nose around and having a day out, you know. This is Leo himself. He's been investigating ladies' drawers, cupboards. I thought he was going to be a bit more shyer than what he is, but he's come out of the shell. Finally, they had everything needed, and IKEA was returned to normal. Soon, shoppers will stream through the doors again, unaware that half an hour before, 100 felines were roaming free in the shop. No, all that rubbish about working with children and animals, I don't know where they get that from whatsoever. Io sto ridendo per l'ultima frase della signora, che evidentemente ha sentito spesso parlare di cinema, e i registi lo dicono, che la cosa più difficile è lavorare con gli animali e con i bambini. La signora dice oh that rubbish, quella spazzatura, quella robaccia, non so, questa cosa di lavorare with children and animals, ma non so dove l'abbiano presa. I don't know where they get that from whatsoever. Perché è facilissimo, basta lasciarli andare liberi e cosa succede? E poi si dice anche anche in effetti che quando non si hanno più idee, no, per uno spot pubblicitario si usano appunto i bambini o gli animali. Però devo dire questa in particolare è una soluzione assolutamente incredibile, perché come dice all'inizio, cats are independent, lo sappiamo, i gatti è parte del loro fascino, sono indipendenti, they don't really listen to us, in realtà non ci ascoltano, to listen to. Qui diverso, no, dall'italiano, noi usiamo ascoltami, quindi l'accusativo, mentre in inglese è to listen to, quindi they don't listen to us, they do what they want, fanno quello che gli pare. Il tempo che ci è rimasto è poco, voglio solo notare alcune piccole espressioni. Intanto they nose around, like having a day out, è deliziosa. Perché nose around, riferito ai kittens, cioè ai gattini piccoli, è naturalmente detto di un gatto, è particolarmente azzeccato, perché effettivamente i gatti usano molto il naso quando vanno in giro. Però to nose around lo potremmo dire anche di una persona, che vuol dire così nasare, cioè andare in giro annusando un po' l'aria. Possiamo farlo anche noi, anche quando appunto ci trastulliamo in giro per una città, ci nasiamo qua e là quello che ci interessa. Roaming free in the shop. To roam, naturalmente noi conosciamo roaming associato ai telefoni cellulari, che è quando una rete cerca, il nostro cellulare cerca di agganciarsi a un'altra rete, ma to roam vuol dire semplicemente appunto andare in giro di qualcosa, andare in giro cercando qualcosa, quindi to roaming free, andare in giro completamente liberi come hanno fatto i gatti. E in questo piccolo documentario di questo backstage della pubblicità vediamo anche che poi alla fine fanno tutte le pulizie, perché poi il negozio, questa IKEA così lo chiamano in Gran Bretagna, è stata rimessa al posto in cui era, e i clienti il giorno dopo nemmeno potevano sapere cosa era successo di notte. Non so come hanno fatto in poche ore a ripulire tutto, magari qualcuno il giorno dopo starnutiva e non sapeva perché. Purtroppo, allora, noi vi consigliamo questo spot perché è veramente divertente, ma soprattutto vi consigliamo un giro in edicola, perché c'è il nostro consueto appuntamento con English 24. Per questo appuntamento devo ringraziare Peter Bescapé in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'appuntamento è alla prossima settimana.